merda, da dove arriva sta merda, che non bastano gli argini per contenerla, che ci si sguazza dentro fino ad avere i lividi, e non serve farle una gabbia con i sacchi di sabbia. Merda, dai che porta fortuna, se ci scivoli dentro, certo è che non profuma. Chi mai grida il miracolo se la pesta in un vicolo? Ma chi la pesta e non fa certo festa. Stava sotto una foglia, te la trascini appresso, hai fatto copia e incolla ed il fai è bello grosso. Dai un'occhiata alla suola, tiri i piedi sull'erba, un orso in una tagliola, ma la figura è di merda. Quello che uno ti ha fatto, tu lo giri a tua volta, tira un altro il tuo pacco e te ne vai mentre bocca. La tua scusa più onesta è che tutti lo fanno, scemo quello che resta con la merda a suo danno. E intanto il livello sale e tutti guardano altrove, come quando uno sgancia un loffio in ascensore, mentre trattieni il fiato e preghi che s'apra l'uscio, te ne stai lì sprofondato, tartaruga nel guscio. Materia prima ne un sacco, a chilometro zero già ti senti un po' cracco, e fai l'occhietto da duro, piatto da intenditori, assaggino speciale, lo decori coi fiori, ma la materia è fecale. Quello che uno ti ha fatto, tu lo giri a tua volta, tira un altro il tuo pacco e te ne vai mentre bocca. La tua scusa più onesta è che tutti lo fanno, scemo quello che resta con la merda a suo danno. Merda.